storie de no altri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari e Antonio Ceccato. Buonasera a voi tutti cari ascoltatori, una buona sera da parte di Gesi e di Antonio. Eccoci qua Antonio, ancora per un'altra trasmissione, per un'altra oretta in compagnia, come al solito, a te la parola. Grazie, e allora buonasera e benvenuta alle amiche e agli amici su Blu Radio Veneto. Vi ricordiamo il nostro indirizzo internet www.bluradioveneto.it. Per consigli, proposte, suggerimenti e quant'altro, il numero di telefono è il 346 23 20 033. C'è la possibilità naturalmente di ascolto in streaming oppure di effettuare il download, cioè scaricare su PC i nostri incontri. E naturalmente un cordiale saluto al nostro regista. Ciao regista. Allora Antonio, stasera abbiamo una trasmissione abbastanza nutrita. Abbiamo il nostro dottor Tony Basso e poi ci raggiungerà in studio il signor Tiziano Spigarioli, un illustre ospite oltre che grande amico. Ecco, e poi così ci racconterà anche un po' della sua associazione dei tabari. Va bene, allora prima incominciamo con una canzone veneta come al solito, e questa volta ho scelto una canzone cantata dai Belumat che è Tagio. È un inno alla carne, chi la vuol cotta, chi la vuol cruda, chi la vuol grassa, chi la vuol magra. Vabbè, ci ascoltiamo i Belumat con Tagio. Chi la vuol tenera? Chi la vuol rosa? Chi la vuol rossa? E chi sugosa? Chi un po' nervosa? Chi grassa e lisa? Chi magretina? Chi soda e fissa? Ognuno la vuol la proprio aglio, par che quel gusto che viene dal taglio. Bel cicin, tutta a magnar, chiami le modi de contentar, che fa felici la bocca e l'occhio, da cruda calda da su tentoggio. Una volta l'era difficoltà a ver cicin in quantità, e par sai argherie qualche bocon, solo le nozze le fe a funzion, anche la sposa a fin d'ornada se la cadea sa consumata. Cicin, tutta a magnar, chiami le modi de contentar, che fa felici la bocca e l'occhio, da cruda calda da su tentoggio. Al di d'in poi, chi ne abbastanza, ma l'abbondanza, la fa ignoranza, anche che ne è, quei che la vota, che i fai diversi, e la rifiuta, mentre noi altri, che a buon passion, vi cambia il taglio, vi se godò. Il cicin, tutta a magnar, chiami le modi de contentar, che fa felici la bocca e l'occhio, da cruda calda da su tentoccio. Oh bel cicin, tutta a magnar, chiami le modi de contentar, che fa felici la bocca e l'occhio, da cruda calda. Che meraviglia! Eccoci di nuovo in studio e introduciamo subito il primo ospite della serata, che è, come al solito, il dottor Tony Basso. E diamo di nuovo il bentornato al dottor Basso, che ci condurrà per mano verso una nuova avventura sempre per le nostre terre. Buonasera dottore. Buonasera. E benvenuto tra noi, è sempre gradito. Grazie. Ogni volta che, anche perché ci erudisce... Noi siamo un po' così. Io ad esempio la storia di Treviso non la conosco, però adesso pian piano la sto imparando. Bene, capita a tutti di dover fare questi passaggi, di imparare dagli altri. E, ripeto, io non sono uno studioso, sono un curioso di cose trevigiane e quindi non faccio altro che raccontare le cose che io ho avuto modo di leggere e di trovare, frutto della ricerca degli altri. La sera scorsa qui abbiamo parlato della via di del Sile come via di comunicazione che ha rappresentato una notevole fonte di ricchezza per la storia della città. C'è da chiedersi, ma ci saranno state anche le strade, ci saranno state cioè anche i percorsi terrestri? Ebbene, vorrei ricordare che stranamente Treviso nell'epoca romana si trova tagliato fuori dalle grandi vie di comunicazione fatte dai romani. La Postumia, che collegava la Lombardia con la parte orientale dell'Italia, e la Claudia Augusta Altinate, che partiva appunto da Altino e che andava su verso nord. Treviso non si trova in nessuna di queste due strade, è decentrato in disparte, e quindi c'è da domandarsi come mai Treviso ha potuto avere uno sviluppo anche economico in epoca romana, al punto che Treviso è stata nel primo secolo avanti Cristo ascritta alla decima regio dei romani col titolo di municipium, quindi un centro che aveva anche una certa importanza economica. Munus di municipio sta eloquentemente a indicare questo. E le strade certamente c'erano, sono state strade minori, ma la romanità ha lasciato a Treviso sulle strade un'impronta del proprio passaggio, cioè nella visione della planimetria urbana noi riusciamo ancora oggi a riconoscere l'impianto urbanistico dato dai romani. Il cardo, ma cioè, da cosa di sicuro riconosce? Adesso appunto stavo dicendo l'asse cardinale, cioè quello che da sud va verso nord, è ancora riconoscibile. La via 20 Settembre percorre, se noi la andiamo a guardare non rispetto alla la guardiamo con la bussola, vediamo che è una strada che va da sud verso nord, va a sbattere oggi contro il palazzo della prefettura e contro la torre della piazza. Ebbene, una volta al tempo dei romani non c'era né l'uno né l'altro, e quindi la strada proseguiva, attraversava questa zona e arrivata dietro alla chiesa di San Vito percorreva poi quella che oggi è la via del municipio. È una strada diritta che va da sud verso nord, e non è una cosa che ci deve meravigliare, perciò il fatto che per esempio nella chiesa di San Vito si trovino delle opere d'arte che richiamano due santi che con la strada hanno avuto a che fare: San Cristoforo e San Giacomo Apostolo. Quindi questa traccia è rimasta. Non solo, ma anche il Decumano, cioè la strada che va da est a ovest al centro della città, ha questa inclinazione, aveva, perché oggi la Calmaggiore ha esattamente, è spostata mi pare di 10-12 gradi rispetto a quello che era l'asse del Decumano. Però la chiesa di San Vito mantiene questa inclinazione, la stessa cattedrale ha questa inclinazione, e la strada passava, le tracce sono state trovate attraverso la pavimentazione nel sottoscala, nell'interrato di un edificio che si trova in Calmaggiore, hanno ritrovato le tracce addirittura con il segno del marciapiede, che quindi ci dà proprio l'orientamento esatto di questa, che combaciava perfettamente con questi assi. E in questo cardo decumano, cioè l'asse est-ovest, c'era la strada che conduceva quindi al confine della città, a quello che in una lapide è il Murum. E che cos'è? Questa lapide, che ora è al Museo Diocesano, è una copia, è murata sul campanile del Duomo, era stata rinvenuta in prossimità del Duomo e indicava come i Severi Augustales, cioè una specie di governatori della città romana, avevano fatto lastricare questa strada, questo decumano, cum crepidinibus, cioè munendola anche di marciapiede. E questa è la testimonianza della importanza che doveva avere la città, se addirittura c'era un percorso riservato ai pedoni. Cosa che oggi, ma io volevo sapere, quei due santi che lei ha nominato prima, San Giacomo e San Cristoforo. San Cristoforo, sì. Che hanno un'importanza per... Per la viabilità certamente, perché San Cristoforo, secondo la leggenda, avrebbe traghettato, preso sulle spalle Gesù nel farlo superare nel percorso stradale un guado su un torrente. San Giacomo poi è famoso per tutta la tradizione di pellegrinaggio che c'è a Compostella in Spagna, e quindi è un po' il patrono dei pellegrini, di coloro che si recano per questo pellegrinaggio a Santiago. Questo per rispondere alla sua domanda, sì. Ma un'altra curiosità, se mi è consentita, l'invenzione dell'automobile, quando le automobili erano poche, era una cosa molto curiosa poter vedere queste automobili in città. E proprio davanti alla chiesa di San Vito avveniva la benedizione delle automobili in occasione appunto della ricorrenza di San Cristoforo, e c'erano queste auto tutte infiorate che passavano davanti alla chiesa, e credo che proprio sia stato l'automobile club dell'epoca a sostenere e incoraggiare anche delle opere di restauro all'interno della chiesa di Santa Lucia. E ho presente una vecchia fotografia nella quale si vede questa processione di automobili, parliamo degli anni 20, 30. 1900 l'automobile, sì. Adesso l'automobile con la sacralità credo abbia ormai poco a spartire, decisamente. Sì, sì. Certo. Ma molto interessante questa cosa dell'automobile, anche perché le prime automobili proprio erano proprio i primi Novecento. Tornando alla romanità, la caduta dell'impero romano che cosa ha determinato? Il vuoto di potere all'interno delle città, però... in città come Treviso e anche in tante altre si era intanto, grazie all'avvento del cristianesimo, costituita un'autorità religiosa, che era quella del vescovo, che aveva un certo ascendente, una certa capacità amministrativa, per cui all'eclissarsi del potere civile, ecco che quello ecclesiastico ha costituito per un certo tempo a garantire l'ordine nella città, non solo, ma pensiamo che questo è andato avanti per certi aspetti fino, pensiamo per esempio ai rilevamenti anagrafici, è soltanto dell'Ottocento l'istituzione delle anagrafe comunali, ma se noi vogliamo sapere qualcosa di quando è nato un personaggio dobbiamo ricorrere alle fonti ecclesiastiche che ci danno i battesimi, la registrazione dei battesimi delle persone che registravano quindi anche la data di nascita delle persone. In città il battistero era unico ed era quello che il primo battistero era quello che c'è in via Canonica, di cui si vedono le tracce, sì, di epoca, quindi quello credo sia del V secolo, degli inizi del V secolo. Poi è stato fatto il battistero che attualmente Quale? Tutti quanti noi vediamo. Certo. Fino al Concilio di Trento, quanto poi le parrocchie sono divenute esse stesse portatrici del battistero. Quindi prima c'era, in sostanza era il vescovo che dirigeva tutto. Era il vescovo in città, sì, mentre tutta l'attività pastorale nelle campagne era affidata ai monaci, perché il vuoto di potere creato dai dalla caduta dell'impero romano, ha determinato, intanto favorito le invasioni, le cosiddette invasioni barbariche, e la gente è scappata via, ha abbandonato la campagna perché questi cowboy che arrivavano un po' saccheggiavano, un po' portavano via i raccolti, i contadini avevano perso l'amore per coltivare i campi, non avevano molti riguardi in effetti, e quindi c'era un si salvi chi può, chi aveva delle possibilità si creava delle residenze in luoghi protetti, magari in cima a qualche collina, e sorsero così i castelli dove i signorotti avevano nei paesi, in qualche paese invece sorsero dei monasteri, ecco l'opera di bonifica dei benedettini di ma veniamo già in un'epoca più matura. Recente. Sì, ma allora lei diceva che nelle campagne erano i monaci che... Ma cosa c'erano dei conventi? C'erano delle specie di parrocchie? No, i conventi intanto sono una istituzione più tarda. Ah, ho capito. Sono gli ordini mendicanti che danno origine ai conventi. I monasteri sono fatti dai monaci e sono... potremmo dire delle piccole aziende, perché essi, proteggendo e curando l'amministrazione delle attività agricole, avevano invitato i contadini ad ammassare i prodotti all'interno di questi monasteri, dove c'erano cantine, c'erano depositi, c'erano mulini. Erano delle unità funzionali autocontenute. Erano delle aziende agricole vere e proprie, e quindi esatto. Così si tutelava anche l'approvvigionamento delle popolazioni. Per cui i monasteri assursero nel tempo un'importanza notevolissima e si ingrandirono, e avevano quindi nel loro giro di azione un territorio a volte molto vasto. E beh, così anche loro i monaci logicamente con questi poderi, con questi cos'erano? Sì, loro vivevano di questo, insomma, in sostanza anche loro. Eh beh, certamente vivevano, perché erano i direttori di questa azienda agricola. Sì, i contadini appunto, avevano perso addirittura lo stile di lavorare. E davano sostentamento chiaramente ai sottoposti, diciamo così, per certi versi. Sì, e ricordo un po' anche delle nostre, che faccio un po' di riferimento a come si viveva in campagna tanti anni fa. Ecco, che allora era già più moderno, già più... Comunque deve essere stato molto interessante vedere queste campagne, questi poderi gestiti da monaci. Tipo l'abbazia benedettina di Santa Maria di Pero, sì, monastero, beh, certo. Un esempio eclatante, diciamo, di un centro di irradiazione di cultura, oltre che un centro economico, naturalmente. Comunque, sono cose interessantissime. Bene, dottore, anche stasera abbiamo terminato il nostro racconto, il suo racconto, che è sempre interessantissimo, e quando arriva l'ora che finisce mi dispiace. È sempre troppo presto, sì, è affascinante, sì, un viaggio straordinario nella grazie, storia. Lei è troppo gentile. No, anche perché ci sono delle cose sulle quali si potrebbe anche disquisire di più. Comunque, intanto per stasera noi la salutiamo, grazie. E la ringraziamo, e alla prossima. Alla prossima volta. Ringraziamo di nuovo il dottor Basso e introduciamo invece una seconda canzone. Questa canzone è... Beh, com'è la vostra vita, ragazzi? La mia è una giostra, la vostra? Ho l'impressione che sia sempre la stessa cosa per tutti. Sì, vero? Sì, sì, sì. Bene, Dalida dice che la mia vita è una giostra. L'ascoltiamo. sincerità, almeno quando mi innamoro. Ed offro la mia libertà all'uomo che così mi dà un giorno di felicità, felicità. La mia vita che cos'è? La mia vita è una giostra che gira. La mia vita che cos'è? La mia vita è una canzone che ho vissuto. Eccoci di nuovo con voi e facciamo un piccolo break. Allora, volevo così annunciare che nei giorni scorsi, mi pare proprio il 17 di novembre, è stato l'anniversario della morte di Andrea Cason. Andrea Cason era un uomo di spicco della cittadinanza, insomma, tutti lo conoscevano, era anche presidente del SIL ed è mancato diversi anni fa, però noi vogliamo ricordarlo. È stato qui anche in trasmissione tempo fa e per me è stato veramente un grandissimo piacere. Era un amante di Catullo e lo ricordo sempre con gioia. Allora, il poeta Emilio Gallina, quando appunto è morto Andrea Cason, ha scritto una poesia. Una poesia che ha scritto per lui e così anche per tutti gli amici che sono mancati in questi periodi, insomma, ecco, periodo. Allora, la poesia si intitola Drio dell'acqua. Drio dell'acqua, nuvole e pensieri che a pian va, va, e drio la mente. Vai a missi che sbrissa so da sponda dei giorni in tel mar dei ricordi. Drio dell'acqua va, i parché che non ha senso, i parché che non ha risposta, e lagrime, lagrime s'angiutae, e parole, parole, parole che voria fermarle, parole che voria sugarle, parole che voria... Che voria, ma che non può l'impinire il vodo de chi s'endà drio dell'acqua. Drio dell'acqua va i ricordi dei amici, e drio il tempo va chi resta a pensar, chi resta a guardare e ascoltar la voce dell'acqua che a pian va, va, va so, portando gli amici verso l'eternità. Ecco, questa è una bella poesia che appunto il nostro Emilio Gallina ha scritto in occasione della morte, e difatti l'ha scritta il 17 novembre del 2005. Allora, adesso presentiamo il secondo ospite, che è il signor Tiziano Spigariol. Buonasera Tiziano. Buonasera, buonasera Tiziano. E bentornato. Grazie. Sempre con grande piacere che accogliamo l'Omo, certo, del Tabaro. Cioè, l'Omo del Tabaro. Esattamente. Beh, intanto ci spieghi perché si chiama l'Omo del Tabaro. Perché da una quindicina d'anni mi sono inventato, diciamo, a recupero storico-culturale della tradizione, avendo eletto il Tabaro a capo simbolo di tutto questo, e sicuramente della nostra tradizione veneta, ma non solo, perché vorrei ricordare che il Tabarro, come la Vallesana, giacca diciamo da campagna, da caccia, ma oggi si direbbe polifunzionale, una volta veniva utilizzata davvero come indumento tipico delle campagne venete. Questi due capi hanno percorso tutta l'Italia e difatti li troviamo ovunque, li troviamo in Emilia, li troviamo in Toscana, li troviamo in Calabria, li troviamo in Sicilia, li troviamo in Sardegna. Ed è strano tutto questo quando diciamo la cosiddetta moda praticamente non c'era, la forza, la potenza di questi indumenti che servivano, ecco, non erano assolutamente capi da sfilate come oggi si possono immaginare o riconoscere ai defilé eccetera, ma erano indumenti per scaldarsi e da lavoro. Difatti c'è anche un'opera che c'è il vecchio tabarro. Sì. Tutto questo legato alla terra, terra che ahimè oggi ci è sempre meno presente, è sempre meno considerata, ma assolutamente è sempre meno presente perché in ogni momento, in ogni anno, ci vengono tolte porzioni di questa terra, di questa meravigliosa, prodiga e prestigiosa terra. Io mi chiedo quando la terra non ci sarà più, o quando questa terra verrà sempre meno e il dislivello percentuale fra terra e urbanizzazione sicuramente selvaggia, senza fare retorica, vediamo quando passiamo con l'auto, con qualsiasi cosa per le nostre strade, vediamo agglomerati interi industriali fermi, capannoni con su scritto vendesi, affittasi. Purtroppo un dramma. Si tende a costruire, però secondo me la campagna non morirà mai. La campagna non morirà per fortuna, per necessità, ma l'appello che vogliamo fare è attenzione, perché ce ne viene tolta costantemente sempre di più. Allora, in novembre la campagna, lei che ha visto, sì, che sa tante cose, cosa si faceva in novembre? Cosa c'era di particolare in novembre? Ma diciamo novembre, che dicembre, così? Sì. Beh, diciamo che la campagna e quindi le coltivazioni agricole hanno seguito sempre, ovviamente e per fortuna, le stagioni. E si sa, quando gela la terra è fredda, la terra è gelata e la terra è incoltivabile. E quel punto, 11 novembre, segnava il punto, diciamo, di fine, ma anche di inizio di quello che una volta era in uso come contratto agrario per l'affitto, la gestione della terra, di gran parte del terreno. E l'11 di novembre, giorno di San Martino, c'era il rinnovo, oppure no, oppure il rifiuto del rinnovo del contratto agrario, e quindi quando c'era il rinnovo, ovviamente le famiglie che avevano condotto quel fazzoletto di terreno l'anno precedente erano tutte animate da una speranza che l'anno successivo le messi potrebbero essere proficue, prodighe, ma chi purtroppo non veniva rinnovato per mille motivi questo contratto si trovava senza lavoro, in una strada senza lavoro e senza abitazione, perché l'abitazione ovviamente era compresa nel contratto agrario ed era quella di proprietà del proprietario del terreno, con annessi e connessi. E come lo festeggiavano a San Martino? Come si festeggiava una volta? Vale, per chi lo poteva festeggiare, le poche cose povere che c'erano, succa, patate americane, forse per qualcuno l'oca, sì. Ma i poveri contadini le oche le vedevano solo nel cortile a razzolare prima care? Di San Martino, perché le oche venivano date ai proprietari dei terreni, diciamo, per rinnovare e ripagare quel tanto o quel poco di fitto, le onoranze, di onoranze, sì, le onoranze, ecco, che venivano fatte. Sì. E chi non festeggiava, ecco qui, pori pitocchi messi in sulle asse, dice la gente che li vede andar, largo che passa un San Martin de strasse, e a San Martin man sempre di così, la gente sentà sul caro, con la vaca vece a strassinar, che lì non si sapeva se l'era ela a tirare il caro o, dopo che il caro se gli era mosso, che fosse il caro a spensarela. I più fortunai. Sì, perché che gli altri il caro lo tiraman. E i madì che se vedea, tra il fumo che mandà su la ra e il fia per la fatica dei cristiani, la casa allontanarse poco a poco, e tutto questo te cavà il cuor. E oggi io vorrei semplicemente dire che questo sia monito. Dovremmo imparare anche oggi, forse oggi più che mai, in questa nostra società un tempo opulenta, oggi sicuramente meno, ma che ci rende pur sempre schiavi del consumo inutile, a pensare che c'è chi soffre e da molto meno di noi, che sia monito e che ci serva. D'altronde si dice, la speranza è sempre l'ultima a morire. Bene. Buon San Martino a tutti. Bene, ormai San Martino. Comunque so che fanno anche delle feste per San Martino, delle piazze, insomma ci sono... Si parla oggi di precarietà, ma un tempo era quella la vera precarietà. Era una precarietà, come dire, strutturale e strutturata rispetto a quello che, diciamo, anche oggi naturalmente, ma un tempo era ancora più gravida di rischi, di pericoli. Sì, oggi quella, cioè un tempo quella era la normalità. Oggi non più abituati alla precarietà, ci è difficile pensare alla precarietà. Ancora come un tempo, esatto. E quindi ci è difficile maggiormente essere precari, accettare questa situazione. Esatto. Situazione che, permettetemi, direi da noi sicuramente non voluta, ma si sa, quando ci si affida a terzi, purtroppo questo è quello che ci hanno insegnato a fare da parecchi anni, alle volte si ricevono delle brutte sorprese. Io sono curiosa, prima di passare alla canzone, quando finiscono i contadini di lavorare nei campi, dopo San Martino o prima? Ma direi dopo, perché, perché prima il frumento dovrebbe, in teoria e anche in pratica, tempo permettendo, essere già in semina. Ho capito. Vabbè, ne parliamo dopo la canzone. La canzone è cantata da Bobby Solo e intitolata Amore mi manchi. Le rose già fiorivano, l'inverno era pallido e se ne andò. Quel giorno io mi ricordo che volevo ancora bene a te, ma ti lasciai. Dapprima non sapevi più se vivere o morire, ma dopo un po' tornasti ancora a vivere, perché nessuno è un angelo come sei tu. La nostra casa è piccola, ma la tenevi in ordine solo per me. Vivevi sola e triste, ma avevi una speranza dentro di te. E i mesi ormai passavano e diventavi pallida sempre di più, finché un giorno limpido trovasti una lettera scritta da me. Amore mi manchi, ma non tornerò. Amore mi manchi, aspetta se vuoi. Un giorno di dicembre ormai, ormai non mi pensavi più. Quando tornai ti vidi intorno all'albero e sorridesti subito vedendo me. Bastava una parola che saresti ritornata in braccio a me. Ma la mattina dopo ti dissi questa frase, poi me ne andai. Amore mi manchi, ma più non tornerò. Aspettarmi più. Le rose già fiorivano, l'inverno era pallido e se ne andò. Le rondini mi han detto che in quella casa piccola non ci sei più. E sono io che non so più se vivere o morire senza di te. Bastava una parola che saresti ritornata in braccio a me. E sono io che... Ed eccoci di nuovo in studio con il cultore delle tradizioni travisane Tiziano Spigariol, il quale ci darà conto, diciamo, dei lavori contadini nell'epoca autunno-invernale e del recupero di queste tradizioni. Sì, allora, come si diceva prima, la terra gela e quindi tranne la cultura di le verze, che basta solo andarle a raccogliere, e qui sfondo una porta aperta con tutti voi, costesine e verze soffegae. piatto tipico dell'epoca. Io sapevo delle verze, ma non delle costesine. Le coste di maiale, diciamo. Ah, le costesine, ho capito, sì. Oddio. Quindi una volta scarnite un tempo, perché tutto serviva per rimpolpare quella che poi diventava la pasta del salame, delle soppresse, sì, eccetera eccetera, ecco, con gli scarti e con questo materiale particolarissimo, le verze, che è buone solo quando Gega Ciappà prima brosa. Esatto. E lì, dicevo, oltre alle verze, il radicchio rosso di Treviso, ormai centenario o quasi. Vuole sì, poi, che abbia già 100 anni il radicchio rosso? Quasi. Perché è stato coltivato, diciamo, molto prima che fosse diventato pubblico, fosse riconosciuto pubblicamente e commercialmente distribuito nelle diverse situazioni di mercato. Beh, il contadino non aveva molto da fare poi nei campi al tempo, nel periodo, diciamo, invernale, per cui si ritrovava nelle stalle il cosiddetto fiò o filò, che lì ognuno si ingegnava, ma oltre a raccontare faceva qualcosa, perché attrezzi agricoli manuali faceva, rimetteva a posto attrezzi agricoli, non so, per esempio i rastrelli, bisognava fare i denti dei rastrelli. Allora il legno utilizzato per il manico era il selger, mentre per i denti si usava la acacia, la gasia, perché robusta, resistente, e allora erano tutti lavori manuali, ovviamente, che prendevano il tempo dell'inverno. Cioè loro varie d'estate aspettavano l'inverno per mettere a posto gli arnesi, per dare una gli arnesi che d'estate venivano, certo, utilizzati, e in qualche modo venivano usurati, ovviamente, dall'utilizzo. Certo. Ecco. Poi tante cose, le pannocchie che si sgranavano a mano, oppure con il battipanoce, tutte operazioni, insomma, in pratica, che servivano per passare l'inverno e recuperare materiale, cibo in questo caso, per l'inverno, per la primavera, eccetera eccetera. Il battipanoce è venuto più tardi, perché non lo ricordo. Sì, ma difatti dicevo che lo sgranellavano a mano. A mano, sì. Ecco. E poi i botui, i tuttoli in italiano, servivano ovviamente per il fuoco. Accendere il fuoco. Non c'erano ancora i pellets. Sì, non c'erano i pellets, quindi ecco, costavano anche meno. Niente veniva buttato via, ovviamente tutto veniva recuperato in un'economia di sussistenza, che era un logico fare. Oggi questo sembra una cosa nuova, addirittura si fanno delle scuole dell'autosufficienza. Noi come Congrega del Tabaro stiamo cercando, questo è un progetto che ci sta animando da qualche tempo, di allestire in Veneto una scuola dell'autosufficienza che, adesso vi leggerò qualcosa, ha come scopo il ritorno a quella che un tempo era la normalità, che era la quotidianità, era l'umano e il quotidiano esistere. Io promotore di queste cose, ma promotore riflessivo della storia dell'umanità, dico, siamo andati avanti o siamo tornati leggermente indietro? Buona domanda. Dobbiamo prenderci cura del nostro pianeta, rispettare le creature con cui condividiamo la Terra, e mentre lo facciamo dobbiamo vivere una vita creativa, buona, sana, e lavorare sodo, senza mai dimenticare di celebrare i raccolti e la bellezza di questo mondo. Personalmente non consiglio niente a nessuno, ma se posso metto a disposizione tutta la mia poca esperienza semplicemente per aiutarli a fare qualcosa, sempre se decidono di farla. Autosufficienza significa riprendere il controllo e diventare produttori efficienti di qualunque cosa si possa fare con le risorse a disposizione. La misura non conta. È una concezione pratica e filosofica al tempo stesso, che si somma tassello dopo tassello, esperienza dopo esperienza. Ciò che un giorno era normale quotidianità e normale sapere, oggi diventa una nuova filosofia di vita che bisogna studiare. Un passo indietro verso il futuro, un passo avanti verso il passato. Recupero di un saper fare che si trasferisce in un saper essere, per essere meno dipendenti, quindi più liberi. Noi siamo dipendenti tante volte da certe cose che... È un programma ambizioso, ma che credo io sia ineludibile. Dobbiamo rimettere al centro l'uomo e la terra e liberarlo dalla schiavitù del consumo inutile. Appunto. Una risposta questa a chi, e crediamo siano tanti, coltiva la speranza per una vita diversa, dove siano loro gli attori di quel meraviglioso spettacolo che comunque è la vita di ognuno di noi. Una speranza per chi, per essere spettatore, paga un biglietto troppo caro al botteghino del consumismo e con nessuna certezza se non quella di vedere un brutto spettacolo purtroppo già visto. Un invito ai giovani, future generazioni del sociale, a non farsi trainare da un carro, ahimè, insicuro e troppo cigolante, ma ad essere traino di quel carro, sia pur pesante, ma mi auguro gioioso del proprio futuro. Ma l'autosufficienza non è solo rafforzamento di un sapere individuale, è anche valorizzazione delle risorse agricole, o meglio, delle risorse agro-silvo-pastorali di un territorio, in un'osmosi propria volta a potenziare le sinergie naturali esistenti fra le diverse produzioni agricole e le bellezze del territorio, per aumentare anche quella ricettività turistica, supplemento ad una sana idea di un vivere naturale. Essa si identifica non solo in una salubrità del vivere naturale, ma anche in un risparmio sociale di costi legati alla non necessità di realizzare infrastrutture di collegamento, come ad esempio con l'utilizzo di sistemi energetici individuali quali il fotovoltaico o l'eolico, per non parlare del lucro aggiuntivo derivato oggi dagli attori della libera concorrenza, ma anche la riduzione dell'inquinamento legato ai trasporti, meno pendolari, minori trasporti, minori inquinamento. Essa rappresenta inoltre l'idea di un sociale dove, oltre a liberare l'individuo dalla schiavitù del consumo inutile, viene celebrato il trionfo di un sistema reale ecologico, dove tutto serve a rigenerare il tutto, nel più completo e assoluto rispetto del tutto. è una vita che lavoriamo per gli altri, con magri profitti e con poche soddisfazioni. Credo sia arrivato il momento di voltare pagina. Ma speriamo di riuscire a voltare pagina. Finché andiamo avanti così, restiamo fermi, inchiodati. Vabbè, comunque, come diceva lei prima, la speranza è l'ultima a morire. Speriamo in bene e ci ascoltiamo un'altra canzone. Ed è allora la quarta canzone, Ti lascerò, cantata da Anna Oxa e Fausto Leali. Ti lascerò andare, ma in difesa come sei, farei di tutto per poterti trattenere, perché dovrai scontrarti con i sogni che si fanno quando si vive intensamente la tua età. Ti lascerò provare a dipingere i tuoi giorni con i colori accesi dei tuoi anni. Ti aiuterò a sconfiggere i dolori che verranno, perché saranno anche più grandi degli amori che ti avranno. Che sbagliare ti lascerò, ti lascerò decidere per chi sarà il tuo fianco, piuttosto che permettere di dirmi che sei stanco. Lo faccio perché in te ho amato l'uomo al suo cuore. Siamo di nuovo in studio per l'ultima tranche, peccato che stia sempre stato... troppo poco. Mamma il tempo mia. È una cosa affascinante. Sì, il tempo è quello che è, purtroppo. Abbiamo sempre il nostro testimonial, detto così all'inglese, ma va bene lo stesso, Tiziano Spigariò. Di quello che abbiamo detto, la Congrega del Tabaro da anni è promotrice di tutti questi eventi, di queste stimolazioni, le definirei io, con assoluta attenzione alla terra e alle persone. E a proposito di persone, nei Filò c'era posto anche o soprattutto, direi, per i vecchi che erano fonti del sapere, che erano la saggezza popolare, che erano tutta quell'università della terra, della campagna, della vita, che i giovani non avevano potuto, ovviamente perché giovani, avere, e imparavano e rispettavano. E a proposito di vecchi, che oggi non si chiamano più così ma si chiamano anziani sì. Diversamente giovani, ecco, la congrega del Tabaro, con il marzo 2011, la festa del Radicchio Verdon da Cortella, ha portato in piazza l'ARGEI, che è l'associazione per la ricerca geriatrica interdisciplinare, che con le problematiche della terza età, che praticamente promuove la campagna contro l'Alzheimer, riuscendo ad inserire nella dieta alimentare contro l'Alzheimer il Radicchio Verdon da Cortella. Grande. Perché fa bene. Molto bene. Ah. Ecco, noi per quello che possiamo, con i mezzi che abbiamo sempre più scarsi, perché le province, le regioni, i comuni, eccetera, eccetera, non ci danno più neanche quel l'esiguo finanziamento per le manifestazioni che ci davano un tempo. Questa è una promessa, cercheremo finché morte non ci raggiungerà di continuare in questo percorso meritorio. E poi si dice le persone muoiono ma le idee restano, se sono buone, e noi speriamo che queste idee possano portare altri adepti e altre persone a portare avanti questi discorsi. Benissimo. Beh, intanto le portate avanti voi. No, una cosa decisamente straordinaria, io sì. Credo che semplicemente occorre porre attenzione alle cose. Ecco, questa è la prima questione. Porre attenzione e ricordare, perché siamo, lo ribadisco ancora una volta, un popolo smemorato. Dobbiamo recuperare la nostra memoria. Non è smemorato, è che... Purtroppo, diciamo, ci sono tante implicazioni. Appunto. Bene, allora noi ringraziamo il nostro Tiziano Spigariol. Grazie all'uomo del Tabaro. Che è stato l'uomo del Tabaro, che è stato veramente esauriente e anche convincente, diciamo, e ha portato veramente delle cose stupende. E alla prossima volta. Che speriamo che sia presto, vero? A vostra disposizione. Va bene, questo mi fa molto molto molto piacere. Allora, Antonio, buonanotte naturalmente alle amiche e agli amici, e alla prossima volta. E la sottoscritta, assieme a te e alla regista Eddie Deitch, augura una serena notte a tutti col suo solito ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.